Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Olga ed Ebs. È il 1977 e dietro Piazza Verdi c'è un posto dove tante donne entrano, escono, urlano, ridono, cospirano. È il Goliardo e sono tante le femministe che bazzicano quell'ex bar dell'Opera Universitaria occupato. Le narrazioni intorno a questo posto mitico, attraversato e vivace, sono diverse. Chi racconta un gran caos, chi preferisce ricordare momenti di preparazione alle grandi manifestazioni cittadine. In un ciclo stilato dell'autunno del 75 per l'occupazione del Goliardo, alcune femministe dichiarano: la crescita politica delle donne si manifesta chiaramente nel notevole sviluppo del movimento femminista. Noi ci inseriamo all'interno di questo processo, facendo nostri gli elementi più importanti della pratica femminista, cioè il coinvolgimento in prima persona di ogni donna e l'assunzione come problema politico e collettivo della sfera privata. Proprio per rispondere a questa esigenza abbiamo ritenuto importante occupare un locale che diventasse un punto di riferimento concreto per le donne e le studentesse. Ad animare questo spazio sono femministe già attive in città, con un'esperienza in gruppi come Lotta Femminista, Collettivo Femminista Bolognese o il Collettivo di Self Help. Ben presto però diventa anche un punto di aggregazione per nuove studentesse e lavoratrici, magari arrivate da poco in città. Che forma prende il femminismo bolognese tra modello emiliano, asili nido e doposcuola? Quale pratica femminista si può aprire con e contro le donne dell'Unione Donne Italiane, organizzazione comunista molto presente in città? Quali esperimenti nell'Emilia disperata e desiderante del 77? Il neofemminismo degli anni 70 rifiuta l'emancipazione come prospettiva futura, preferendo puntare a nuove pratiche di liberazione. Non si vogliono servizi che concilino la figura di madre e lavoratrice. Non si vuole proprio più essere madre. Si critica il lavoro salariato e ovviamente anche quello di cura. Le bolognesi del femminismo radicale sono certo donne nuove alla militanza, ma sono anche compagne del movimento legate alle organizzazioni della sinistra extraparlamentare come Potere Operaio. La militanza nel movimento con i maschi, però, tutta concentrata sul sociale, non basta più. Allora ci si confronta fra donne, si parla, ci si riconosce e nascono i primi momenti separatisti. Because you prime formazioni spicca il nome di lotta femminista, che si spende per questioni come il salario domestico alle casalinghe. Sicuramente queste militanti sono vicine alle tendenze marxiste, ma vogliono ugualmente stare tra donne, perché le questioni femminili non sono un punto all'ordine del giorno da prendere in considerazione dopo la rivoluzione, o problemi da assimilare alla lotta di classe, ma hanno un bisogno specifico. Presto le bolognesi entrano in contatto con altri gruppi che si occupano del lavoro di cura, soprattutto a Modena e a Ferrara. Le bolognesi si avvicinano anche alla pratica più originale del movimento delle donne, quella dell'autocoscienza. L'autocoscienza nasce dall'incontro di donne che, partendo dal proprio vissuto, cercano di analizzare la condizione femminile nei suoi aspetti materiali, creativi, psicologici e spirituali. Nasce da un'esigenza spontanea e può successivamente articolarsi in forme strutturate. È il bisogno politico esistenziale di crearsi uno spazio uscendo da un isolamento senza ricorrere all'agire politico tradizionale fatto di assemblee, militanze e luoghi pubblici. Il privato delle donne assume una dimensione politica rivoluzionaria. A Bologna ci sono gruppi specifici che fanno solo questa pratica oppure sono sottogruppi di un più ampio collettivo. Ma la forza travolgente dello stare tra donne crea momenti di autoriflessione anche fuori dalle strutture deputate al movimento, nelle feste, prima delle assemblee, nelle case di studentesse fuori sede o nelle osserie del centro storico. Nelle testimonianze, questo movimento viene raccontato come vivace, coinvolgente, impegnato, ma anche autoironico e divertente. Un'immagine lontana dal facile stereotipo maschilista della femminista arrabbiata che non ride mai, dedita a riflessioni senza fine e ai capelli grigi. È un movimento variegato, dove le soggettività delle singole si incontrano e si scontrano, che non prevede omogeneità dietro la sigla Movimento Femminista Bolognese. Fuori, le rossa mura della città prendono vita le grandi battaglie del femminismo italiano, tra le quali, ovviamente, quella per la depenalizzazione dell'aborto volontario. Si smaschera la gravità dell'aborto clandestino, si formano i cortei, le autodenunce e si creano spazi liberati dove informarsi sui propri corpi e dove praticare interruzioni volontarie di gravidanza in un ambiente il più sicuro possibile. C'è la necessità non solo di venire incontro a un bisogno materiale, ma anche di riflettere su sessualità, mestruazione, menopausa, contraccezione. Nasce così un gruppo di self-help che porta con sé le dure critiche alla maternità già sviluppate nei primissimi anni 70. Ma tra femministe non c'è sempre pace e i conflitti più evidenti sono tra le donne del movimento, autonome e radicali, e quelle legate ai partiti come il Movimento di Liberazione della Donna, inizialmente legato al Partito Radicale. Tra le più criticate ci sono sicuramente le donne dell'UDI, troppo vicine ad un partito comunista che sembra lontanissimo dalla parola delle femministe e dal movimento. Inoltre l'UDI, agli occhi delle nuove femministe, rappresenta un modello di femminista che vuole le donne più integrate in un sistema che comunque rimane patriarcale. Essere femministe a Bologna negli anni 70 significa anche essere parte di quell'eccentrico anno noto come il 77 bolognese. I punti in comune tra movimento del 77 e femminismo non sono pochi, come la centralità del desiderio, la volontà di vivere qui e ora la rivoluzione e la critica all'autoritarismo. Ovviamente non mancano le polemiche sulle pratiche di piazza o sul sessismo ancora presente fra i compagni, ma le bolognesi riescono comunque a creare i loro momenti pubblici come presidi e cortei. Uno dei cortei più significativi è stato quello dell'8 marzo del 77, che ha come obiettivo l'occupazione di uno spazio, ma ad accogliere le donne ci sarà la violenza della polizia. I ricordi su quella giornata riportano la sensazione di shock e la brutalità gratuita delle forze dell'ordine della Rossa Bologna. Alcuni hanno definito quella giornata come le prove generali della repressione che subirà il movimento di lì a poco. Proprio in questi giorni verrà murata l'entrata dello spazio simbolo di questo femminismo bolognese, il Goliardo. Un muro che al di là della gravità materiale diventa simbolo della durezza della repressione dello Stato, insieme ai carri armati in via Zamboni. Un muro però che non vuol dire fine. Le bolognesi affrontano la repressione, i compagni e le compagne in galera e la diffusione dell'eroina, ma quella festa che è stato il femminismo non si esaurirà di colpo. Infatti, il movimento delle donne continua a portare avanti progetti nati in città e legati alla gestione di spazi dove arte, cultura e sapere delle donne iniziano a mettere le radici per una nuova stagione del femminismo italiano.